Ciao! Sono Arianna con Chiara e Roberta e questa è la nostra puntata di quella che vorremmo essere una serie di podcast topiche. Indaga, si interroga e scruta il mondo della produzione culturale nella sua materialità, partendo da domande come quella di oggi: come si fa un libro? Discuteremo attorno a questa domanda, osservando tutti i processi che stanno dietro a i libri che teniamo in mano, i film che guardiamo, le performance a cui assistiamo, e lo facciamo con le voci e i corpi di chi dà forma a quella materialità. Oggi avremo un po' di ospiti che ci accompagneranno nel mondo della cultura editoriale italiana e a cui lasciamo subito la parola. Topiche! Con un occhio luccicoso e paiettoso, ripensando al mese del Pride appena concluso. Siamo a Milano e la nostra ospite è Marta Palvarini. È una grande giocatrice di videogiochi, game designer, autrice, attivista e cofondatrice della casa editrice Asterisco, per la quale ha di recente curato il libro Fuori dal Dungeon, genere, razza e classe nel gioco di ruolo occidentale. Vogliamo parlare proprio di questo libro. Ciao Marta. Ciao Chiara. Allora Marta, raccontaci cos'è che ti affascina tanto dei giochi di ruolo. Ma il gioco di ruolo, essendo un'esperienza interpretativa e quasi attoriale, riesce in qualche modo a tirare fuori, a rappresentare le possibilità di ogni persona. Giocare di ruolo è effettivamente l'espressione interna, interiore, di caratteristiche che alle volte sono sopite nel raccontare la storia, nel narrare la storia di altre persone diverse da noi, persone possibili che sono i personaggi giocanti nel gioco di ruolo, possiamo a tutti gli effetti scrivere storie altre, scrivere storie anche lontane da noi, diverse da noi, e che a tutti gli effetti possono raccontare in profondità anche narrazioni sopite narrazioni che altrimenti non riuscirebbero ad emergere in alcun modo. Ho capito. Chi non conosce bene questo mondo come me non si aspetterebbe che le questioni di genere, razza e classe emergano così fortemente, tanto da farvi scrivere un intero libro in proposito. Perché pensiamo che di fronte a un gioco, anzi dietro lo schermo, siamo tutti uguali. Non è così, quindi? In qualche modo il gioco di ruolo ci permette di essere... il gioco di ruolo è maggiormente egualitario della vita reale, su questo non c'è dubbio. Le regole del gioco permettono in qualche modo una maggiore un maggiore aspetto egualitario. Detto questo, però, le caratteristiche di ogni giocatore e ogni giocatrice emergono, e anche le caratteristiche dei personaggi a tutti gli effetti. Un personaggio nero o una donna o una persona LGBTQ all'interno del gioco di ruolo viene spesso rappresentato in maniera diversa, in maniera altra, e questo caratterizza il gioco anche in maniera dissimile. Quindi in qualche modo abbiamo un gioco egualitario, un gioco che tende verso un principio egualitario, che però è giusto, che in qualche modo però fa emergere anche le differenze e anche i potenziali conflitti. E proprio di questi conflitti si parla all'interno di Fuori dal Dungeon, dei conflitti tra genere, razza e classe, tra le classi, tra i generi, tra le razze, e tutte le oppressioni sistemiche che sono all'interno di manuali di gioco, alle volte, proprio perché scritti molto spesso da uomini bianchi, eterosessuali e cisgender, e la successiva rappresentazione invece di liberazione in qualche modo, fatta invece da soggettività LGBTQ, da donne, da persone non bianche, all'interno proprio degli stessi manuali. Ho capito, molto interessante allora Marta. E poi so che hai pubblicato un primo gioco di ruolo che hai creato proprio tu. In che cosa è diverso questo gioco rispetto agli altri? Il gioco si chiama Duralande, è un gioco ecopunk, quindi è un incrocio tra il famoso genere cyberpunk e una riflessione maggiormente ecologica, dove con ecologico non intendiamo semplicemente il concetto di ecologia classico, ma il concetto di ecologia marxista, quindi dove tutto in qualche modo è interconnesso da piani economici, sociali e psicologici. In Duralande si possono interpretare personaggi estremamente diversi, personaggi vengono scelti in una misura relativamente casuale, questo ci permette di interpretare, stare nei panni degli altri, delle altre, altre in maniera più profonda, il gioco si focalizza in maniera specifica sui concetti di oppressione e privilegio. I personaggi sono estremamente dissimili tra loro, sono asimmetrici, non sono bilanciati, non si sale di livello come in molti altri giochi, ma invece in qualche modo i personaggi si ritrovano sempre in situazioni di conflitto proprio per via delle loro differenze. E in queste differenze emerge il conflitto di classe, emerge l'orgoglio LGBTQ, emerge il femminismo. Fantastico Marta, penso che hai fatto venire voglia di giocare anche alle persone come me che non hanno mai giocato. Allora io approfitto per dire qual è il sito della casa editrice che hai fondato, Asterisco Edizioni, quindi asteriscoedizioni.com. Cofondato, giusto. Salutiamo anche tutte le altre editrici ed editori del vostro collettivo. E nel sito si possono comprare i nostri libri. Si possono comprare i nostri libri, ne abbiamo un bel po' in catalogo, abbiamo una collana specifica sugli ristampe degli anni 70 e 80 del mondo LGBTQ e femminista, abbiamo una nuova collana Incidenti che parla delle attuali prospettive politiche di intersezione tra LGBTQ, femminismi, genere e studi linguistici, questioni nerd. E infine abbiamo una piccola collana di albi illustrati, fumetti e graphic novel. Benissimo Marta, grazie, alla prossima. Ciao, ciao. Buongiorno, ciao, siamo qui con Francesca Cavallo, scrittrice e regista teatrale, autrice del neonato Dottor Lee e il virus con in testa una corona. Ricordiamo ancora prima Storie della buonanotte per bambini ribelli, volume 1 e 2, edito da Mondadori, e il penultimo invece è Elfio al quinto piano, edito da Feltrinelli. Io starei ore e ore a parlare con Francesca, anche perché abbiamo... Ciao! Perché abbiamo anche studiato appunto nella stessa Accademia di Teatro la Paolo Grassi, però dobbiamo appunto concentrarci perché abbiamo poco tempo. Quindi vado subito alla prima domanda. Come nasce questo tuo ultimo libro e di che cosa parla? Allora, è nato in un modo molto particolare perché durante il lockdown cercavo un modo di restare vicina ai miei lettori. E la rivista Grazia mi ha commissionato una fiaba per bambini sul coronavirus. Io ho scritto questa fiaba che è stata pubblicata sulla rivista e quando l'ho letta ho pensato, beh però forse questa fiaba potrebbe interessare a più persone che non soltanto i lettori della rivista. Quindi ho contattato una illustratrice italiana che vive a Cambridge in Inghilterra e le ho chiesto di illustrare la fiaba che avevo scritto. Ho creato un PDF e l'ho reso gratuitamente scaricabile sul mio sito in quattro lingue, italiano, inglese, tedesco e spagnolo, e ho messo l'annuncio sulla mia pagina Facebook e la storia è esplosa, nel senso che è stata scaricata da 40.000 persone in due settimane e tantissimi volontari veramente da ogni angolo del mondo mi hanno contattato per chiedermi di tradurre la storia nelle lingue più disparate, dal faroese al georgiano, all'hindi, al marathi, all'arabo. Quindi siamo andati online con 35 lingue, tantissimi di questi mi hanno chiesto di fare un libro stampato per avere un ricordo della pandemia, che è una motivazione che io all'inizio non avrei, però in realtà è molto importante per i bambini. E allora ho creato una campagna di Kickstarter per creare la versione stampata di questo libro, che a questo punto poi avrà una versione estesa della storia e molte più illustrazioni originali a tutta pagina, sempre fatte da Claudia Flandoli, che è l'artista che aveva illustrato anche il racconto breve. Ok, quindi questa... Di cosa parla? Sì, esatto, sì. Allora, si chiama Il Dottor Lee e il virus con in testa una corona e parla della storia del primo medico cinese, il dottor Li Wenliang, che iniziò a diffondere la notizia che c'era un nuovo coronavirus che si stava diffondendo nell'ospedale centrale di Wuhan. Subito dopo aver mandato un messaggio al gruppo dei suoi colleghi per dirgli di indossare le mascherine, di indossare tutte le protezioni, perché questo virus sembrava pericoloso quanto la SARS, e il dottor Lee aveva ricevuto una visita dalla polizia che gli aveva intimato di gli aveva detto di smettere di diffondere questa notizia e gli aveva fatto firmare una lettera nella quale lui si autoaccusava di aver diffuso false informazioni. Per cui il dottor Lee in realtà poi purtroppo si è ammalato di coronavirus, perché come sappiamo adesso tutti non era una informazione falsa, ma aveva ragione lui. Sì. Quindi lui purtroppo si è ammalato ed è morto il 7 febbraio. La sua morte ha scatenato una valanga di proteste in Cina per la libertà di espressione e il dottor Liu Wenliang è diventato un po' a livello internazionale una figura fondamentale sull'importanza della scienza, sì, e della libertà. Quasi un martire. Il libro parla di questo. Sì, sì. Cioè, nel senso, è morto anche a 34 anni, quindi chiaramente rispecchia anche tutta la fascia dei medici, no? Degli infermieri, di tutto il personale sanitario che, oltre a sacrificare la propria vita, ha sacrificato anche la propria esistenza, che è sopravvissuto, appunto. Esatto. E mi ricollego subito alla seconda domanda, perché chiaramente nei tuoi lavori c'è sempre un'attenzione particolare alla libertà di espressione, a questi temi, al femminile, un'attenzione alle minoranze, ai diritti, eccetera. E come mai, appunto, questa voglia forte di trattare queste tematiche? Guarda, la ragione principale è che io credo che i bambini che vengono spesso descritti come cittadini del futuro siano invece cittadini del presente e che vadano trattati come tali. Per questa ragione io cerco in tutti i libri che scrivo di dare ai bambini degli strumenti per leggere il nostro presente e faccio una battaglia personale contro una certa visione della letteratura per l'infanzia che attraverso la rimozione delle persone omosessuali, attraverso la rimozione delle persone di colore, pensa di rimanere neutra rispetto a determinati temi, ma la rimozione della diversità che esiste nel mondo non fa rimanere neutri questi libri, continua a promuovere un'agenda profondamente conservatrice. Allora, una delle mie ossessioni è quella di iniziare da subito a mostrare ai bambini il mondo in tutta la sua ricchezza e in tutta la sua diversità, per fare in modo da eliminare alla radice quei semi che poi si trasformano crescendo in intolleranza, in odio, in volontà di mettersi davanti agli occhi qualsiasi cosa pur di non vedere la realtà e l'evoluzione. Esatto. E proprio per questo motivo, appunto, proseguo, perché sicuramente dietro questo tuo messaggio c'è anche un concetto di ribellione, oltre che appunto il titolo del tuo bestseller. Ma questa ribellione com'è vista dalle persone che leggono i tuoi libri? Perché a volte ci sono delle reazioni, i tuoi libri sono sempre accolti benissimo, come giusto che sia, però sicuramente ci sono anche delle critiche, anche le critiche, no, sono costruttive a volte, e volevo chiederti in base a questo se ci sono state delle letture eccentriche, sia a livello positivo, cioè sia in modo positivo che in modo negativo, se qualcuno ti ha stupito, no, come ha accettato queste. Guarda, una delle cose che mi ha stupito di più è stato il fatto che alcune persone venivano da me a dirmi: ho scoperto la storia di questa donna in uno dei tuoi libri. E ovviamente in tanti casi la donna che mi citavano c'era, ma c'erano anche casi in cui non c'erano queste donne nei miei libri. E quindi all'inizio non sapevo bene come cogliere questo commento. Poi alla fine ho capito che in realtà i libri di storia della buonanotte per bambini ribelli hanno dato delle lenti alle persone per vedere storie che prima non vedevano, storie che prima erano invisibili, e questo alla fine era uno dei commenti più strani all'inizio, ma è diventata una delle cose di cui sono più orgogliosa. Tu hai fatto una scelta anche per quanto riguarda la pubblicazione, cioè nel senso ti sei hai utilizzato il crowdfunding, come mai? Un po' perché mi piace rompere le uova nel paniere del sistema. Mi piace provare costantemente a trovare modi nuovi di avere una relazione molto più stretta con i miei lettori. Il mondo dell'editoria è uno dei mondi che si è innovato meno con l'avvento di internet, nel senso che la cosa più grossa che è successa è Amazon, che ovviamente occupa una piccolissima percentuale di tutto quello che si potrebbe innovare nel mondo dell'editoria. E nella larga parte gli editori tendenzialmente si lamentano del fatto di aver perso i propri lettori a causa di internet, a causa del fatto che i bambini, per esempio, stanno molto di più su YouTube, eccetera. Ma secondo me non c'è un processo di interrogazione profonda su come instaurare un dialogo con i lettori oggi. Se noi pensiamo alla storia di grandi editori italiani come Einaudi, Feltrinelli e al sogno che avevano questi editori nel voler usare i libri come strumenti per cambiare il presente, per guidare rivoluzioni, e abbiamo il dovere di immaginare oggi delle case editrici che vivano quel sogno, non cercando di replicare delle dinamiche novecentesche, certo, ma capendo come si usano oggi, sì, in un mondo in cui c'è internet, in un mondo in cui c'è YouTube, come si usano oggi i libri per portare avanti quelle stesse rivoluzioni. Esatto, arrivare proprio al centro della parola tecnologia, cioè utilizzare un mezzo che è contemporaneo e che ti consente di andare avanti in qualche modo con col presente e col futuro. E proprio di futuro, appunto, chiudiamo con l'ultima domanda, che è più una curiosità, visto che sei comunque un vulcano in eruzione e quando meno te l'aspetti c'è una cosa di Francesca Cavallo, una novità. Volevamo sapere quali erano i tuoi progetti futuri, quali sono e a che cosa ti stai interessando, senza voler spoilerare, però così, qualche curiosità. Mi interesserebbe moltissimo fare un'esperienza di cinema. Questa è una delle cose alle quali ho iniziato a pensare da quando ho lasciato Bambine Ribelli, ho anche esplorato alcune storie e in realtà nelle ultime settimane sto iniziando a immaginare come potrei unire la mia esperienza di teatro e di, quindi il tipo di lavoro che facevo con gli attori quando facevo la regista di teatro, come potrei unire questo tipo di lavoro a un'esperienza cinematografica, che tra l'altro è una cosa che a Los Angeles ho visto fare a molti, perché per esempio lo show di Jill Soloway, Transparent, stato girato molto con le improvvisazioni con gli attori, oppure sì, io sono una grande fan del lavoro dei fratelli Duplass e loro lavorano moltissimo così con gli attori. Ma anche Fleabag, se ci pensi, anche la stand-up che parte dal teatro, appunto poi riesce... ha dato delle, appunto, dei risultati straordinari. Bello, bene, bene, bene. Mi piacerebbe fare un'esperienza così, vediamo. Bene, allora noi ti diamo in bocca al lupo, ti abbracciamo e ti salutiamo. A presto, Francesca Cavallo, grazie mille. Grazie, grazie a te Roberta. Rieccoci Topiche, sono con Marie Moïse, che sta scrivendo la sua tesi di dottorato in filosofia politica ed è anche un'attivista. Marie scrive principalmente di razzismo, femminismo e relazioni di cura per Giacobbe in Italia. È coautrice di Future, il domani narrato dalle voci di oggi, edito da FQ e curato dai Giabascego. Ed è traduttrice di Donne, razza e classe di Angela Davis, che è edito da Allegre. Angela Davis per noi Topiche è un vero riferimento e vorremmo lo fosse per tutte, per tutti, per cui questo è un libro che vi consigliamo caldamente. Ciao Marie! Ciao Topiche e ciao a chi ci ascolta. Allora Marie, dici, come nasce la volontà di tradurre una figura così iconica e ancora molto attiva nelle battaglie che sono state fatte proprio anche da Black Lives Matter? Sì, guarda, questo libro è uscito in Italia e non a caso, in una data simbolica, proprio che spiega la scelta che ci ha portato a tradurlo. Questo libro esce l'8 marzo 2018 in occasione del secondo sciopero globale contro la violenza sulle donne. Si tratta appunto di un testo che abbiamo voluto portare in Italia in un momento in cui nuove battaglie, nuove vecchie battaglie hanno ripreso le piazze di mezzo mondo contro la violenza sulle donne in particolare, ma anche portando in auge un nuovo approccio, quello che possiamo sintetizzare con un termine che piano piano stiamo sdoganando e che è quello dell'intersezionalità. E Donne, razza e classe è di fatto il primo testo che teorizza l'intersezionalità, ovvero un intreccio fondamentale per capire la dominazione e l'oppressione nel sistema economico-sociale che viviamo tra questioni di genere, questioni di classe e questioni di razza. Intersezionalità significa quindi comprendere come questi assi di oppressione, nel definire l'oppressione stessa, si intrecciano tra di loro, si costruiscono tra di loro. E volevamo che la comprensione a fondo di questo concetto potesse farsi arma nelle mani di questi nuovi movimenti per le nuove vecchie appunto lotte in mano a anche una nuova generazione di donne, ma anche di seconde generazioni, di persone migranti, queer, e che quindi già incarnano l'intersezionalità e oggi ne fanno una lotta. Sì, come avete lavorato alla traduzione tu e Alberto Prunetti? Il lavoro collettivo per questa traduzione è stato fondamentale. Io e Alberto per un mese e mezzo, senza sosta, ci siamo dedicati a una discussione, a un dibattito nel merito delle questioni politiche centrali di questo testo che ci ha permesso appunto giorno dopo giorno di affrontare alcune scelte di traduzione che non erano semplicemente scelte appunto stilistiche o formali, ma di contenuto e di contenuto politico. Forse l'esempio più eclatante in questo testo è la scelta nostra di tradurre la parola black con la lettera maiuscola, quindi dell'emma nero-nera, così come Angela Davis appunto fa con la parola black nel testo originale. Ecco, questa scelta di mettere l'iniziale maiuscola sulla parola nero non è una scelta appunto semplicemente di stile, ma è una scelta che i movimenti antirazzisti dai primi del Novecento portano avanti, ma anche da prima, proprio per segnare anche graficamente il fatto che la nerezza non è semplicemente un aggettivo, ma una costruzione sociale, e che quando si parla di persone nere, quella nerezza non è semplicemente una loro caratteristica, e il fatto di... ma appunto il segno di un'oppressione, e il fatto di segnare quella lettera maiuscola vuole andare politicamente a segnare pagina dopo pagina in questo testo il fatto che si stia parlando di persone e non di esseri resi minuscoli da una storia di oppressione razziale. Grazie Marie, questo esempio mi sembra che spieghi molto bene qual è il lavoro che ci si trova a fare quando si traduce un libro che è essenzialmente politico. Sì. Quindi io ti ringrazio, il libro si trova facilmente, quindi dico a chi ci ascolta, se vi va scriveteci anche per farci sapere cosa vi avrà lasciato. E allora grazie Marie e alla prossima. Grazie a voi, grazie Topic a tutte e tutti. Ecco, buongiorno, sono sempre io, Roberta Lidia De Stefano, e do il benvenuto ad un'altra ospite. E in questo caso si tratta di Ornella Vanoni, la grandissima cantante che, come sappiamo, ha molto a cuore i diritti anche della comunità LGBTQI+, e volevamo appunto sapere come aveva passato la settimana del Pride, che è appunto la settimana appena trascorsa. Buongiorno, sì, ciao Roberta, ciao, scusami, sì, ma cosa, ma io sono qua da, è 15 giorni che sono qua dal Parco ai Giardini di Porta Venezia, ma quando passa questo carro qui? È già passato? E allora perché, io mi sto anche un po' rompendo le scatole, sto qui, non succede niente, come Ornella, no, forse non ha capito, quest'anno il Pride cioè non c'è stato, c'è stata solo una piccola rappresentanza di... Ah, ecco perché non vedevo nessuno, ma perché, scusami, ma che senso ha allora che mi avete fatto venire qua? No, ma noi signora Vanoni, non l'abbiamo assolutamente obbligata ad andare, insomma, è una cosa libera, ognuno se la sente, insomma, partecipa alle attività Ma io volevo fare un po' di festa. Pensavo ci fosse anche la mia amica, la Raffaella, Raffaella Carrà, e volevano cantare quella lì, la canzone quella. Na, na, na, na, na, na. Non mi è sembrato di sentire rumore, rumore, na, na, la paura. Questa sera non mi sento sicura, sicura, sicura mai. Volevo anche invitare Gino. Mi è sembrato di sentire Gino Paoli, Gino Paoli, Giorgio Sele. Pensavo che la manifestazione partisse dai giardini e arrivasse fino al piccolo teatro, che poi la scuola che ho fatto io con Giorgio, no? Con Giorgio Sè. Ornella Vanoni, mi spiace questo fraintendimento, però non lo so, se non ha visto passare né Raffaella Carrà né nessun altro, non mi spiace, ma semplicemente perché poi ci sono stati, col fatto del coronavirus, abbiamo cercato di non creare assembramenti, ecco, e soltanto per quello volevo precisarlo anche per le persone che ci ascoltano. Eva, vabbè, ma ditelo subito, no? Ma che due maroni, ma che sono qua da 15 giorni con la tenda qui nei giardini, ogni tanto passava qualcuno, non si capiva che era omosessuale, ma mai potevo immaginare che... Vabbè, allora me vado a casa. Comunque io sto a Milano, sto in Brera, se volete passare a trovarmi facciamo una festa. Chiamo anche la Patti Bravo, la Loredana Bertè, se c'han voglia, diglielo, va bene, glielo diremo assolutamente. Grazie, grazie mille Ornella Vanoni, è sempre un piacere, ecco, alla prossima puntata allora vedremo appunto, sarà una sorpresa diciamo, perché il tema della prossima puntata sarà il cinema e quindi chissà che la nostra Ornella Vanoni non abbia qualcosa, ecco, in proposito. Vi restituisco la linea. Arianna e Chiara, e buona giornata da me e da Ornella Vanoni. Ed eccoci verso la fine, pronte a salutarvi, qui Arianna insieme a Roberta e Chiara, le topiche che hanno curato la trasmissione di oggi. Un abbraccio a voi topiche che state ascoltando e speriamo di sentirci presto con la prossima volta come si fa un film. Baci da questa calda estate milanese.